Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo ormai alla fine di gennaio, altro argomento da affrontare con l'Adico di Mestre, un argomento in realtà forse secolare. Italia, paese di mammoni, e lo è sempre stato, forse la crisi ha incentivato questa situazione. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, è così, la crisi ha accentuato il nostro essere mammoni? Sì, il fenomeno dei mammoni è da un po' di tempo che lo stiamo monitorando anche come Adico. Abbiamo avuto anche dei casi di persone che si sono rivolte a noi e già da qualche tempo, quando ancora si parlava di bamboccioni. Ed è un fenomeno che certamente questa crisi lo sta acutendo moltissimo, perché questa volta dare i numeri non è l'Adico in base ai casi trattati, ma sono diversi istituti di statistica dell'Unione Europea e del Regno Unito e degli Stati Uniti, che sostanzialmente ha stilato una classifica dei paesi rivolta ai giovani tra i 25 e i 34 anni che vivono a casa con i propri genitori, e ovviamente gli italiani non potevano essere che ai primi posti di questa classifica. Già si faceva fatica a uscire prima, perché si stava comodi tra le mura domestiche, adesso magari c'è anche qualche ritorno causa crisi? Beh, certamente il fenomeno del ritorno c'è, pensiamo per esempio anche al fenomeno delle persone che si separano, che non ce la fanno più a vivere da sole e certamente devono ritornare, ma anche per effetto di chi perde i posti di lavoro e si è ritrovato in questa crisi a ritornare un po' a vivere tutti assieme. Ma certamente il fenomeno dei mammoni è un fenomeno che fa riflettere, perché vediamo che questi dati, queste percentuali salgono man mano che la crisi si acutisce, tant'è che se l'Italia in un momento di grave crisi economica risulta tra i primi posti al mondo dove i ragazzi continuano a vivere con la famiglia, e peggio di noi lo fanno paesi come per esempio Malta, la Romania, la Slovacchia, cioè in ordine la Slovacchia e poi insomma l'Italia, certamente scopriamo che i paesi nordici come la Scandinavia, la Norvegia, eccetera, sostanzialmente queste percentuali non le ha neanche, parliamo di una percentuale del 3-4%, quindi vediamo proprio come dove c'è la crisi c'è un fenomeno, dove non c'è la crisi questa cosa sostanzialmente non se ne parla. Sì, c'è anche una questione probabilmente culturale, perché nei paesi scandinavi insomma sappiamo che c'è una posizione diversa nei confronti della famiglia rispetto ai paesi latini. Ci metto l'Italia, ma ci metto anche la Spagna e probabilmente la Grecia, anche questione culturale oltre che economica. Però la Slovacchia mi stupisce un po', forse, no? Sì, guarda amico, la situazione, il fenomeno culturale sicuramente ha il suo impatto, e sicuramente, come dico te, anche noi colpisce molto il fenomeno della Slovacchia, il fenomeno della, ma anche la stessa Romania. Però ecco, voglio dire, ci mettiamo noi, quando si tratta di un fenomeno negativo purtroppo siamo sempre ai primi posti. Certo è che oltre al fenomeno culturale vediamo come in Italia questo fenomeno è acutito dalla crisi. Perché? Perché soprattutto è rivolto ai giovani, in quanto i giovani sono quelli che sostanzialmente, a parte il fatto culturale, sono quelli che devono sognarsi avere un contratto a tempo indeterminato, e certamente in una condizione in cui uno è precario, in una condizione in cui uno è scoraggiato, è a casa, fa fatica anche a fare impresa, certamente non può beneficiare di tutti quegli aiuti che uno che magari ha una certa stabilità, ha un contratto a tempo determinato, magari può sostenere anche un mutuo e quindi pensare di costruirsi un futuro. È anche vero che notizie di stampa, ricerche, insomma, dicono che i giovani sono sempre più in uscita, magari verso l'estero. Allora a chi crede? Al fatto che siamo mammoni o che stiamo diventando nord europei anche noi? Il fenomeno della migrazione verso altri paesi è dettato dalla disperazione di cercare un posto di lavoro. Certamente questo è un fenomeno che non riguardano tutti, ma riguarda in particolar modo anche chi ha una certa età e veramente risulta ancora disoccupato ed è scoraggiato. Il fenomeno del mammone certamente può essere anche un fenomeno che contrasta un po' con questo flusso verso l'estero, ma certamente i dati delle persone che oggi risultano a casa rispetto a chi va all'estero in cerca di lavoro certamente ci dà un quadro di quella che è una situazione ormai che nel nostro paese vediamo che giorno per giorno sta solamente peggiorando. Addirittura adesso si parla di deflazione, per cui già qualcuno sta mettendo le mani avanti per cercare anche dei due gli stipendi, robe così. Quindi non certo l'Italia in questo senso sta raccogliendo le sfide per fare le cose migliori, ma sostanzialmente stiamo acquisendo il peggio e lo stiamo adattando alle nostre consuetudini. Fiscalmente magari cosa conviene? Stare a casa o mettersi per conto proprio? Forse stare a casa, anche qui non mancano degli incentivi? Beh, se ragioniamo dal punto di vista fiscale, certamente rimanere a casa significa non dover sostenere delle spese. Un'altra cosa invece, se pensiamo agli incentivi a poter intraprendere una libera attività o fare qualcosa, sostanzialmente per i giovani coppie c'è veramente poco. Ne sono uscite qualcosa per il tempo fa per le giovani coppie che potevano accedere a dei mutui agevolati, ma dopo alla fine ci troviamo che se tu non lavori e non hai un lavoro sicuro, il mutuo comunque poi bisogna pagarlo, per cui sai, oggi c'è anche molta prudenza rispetto a qualche anno fa, soprattutto perché non ci sono quelle condizioni che molte persone si sentono sicure di poter fare quel passetto che li può portare verso un'autonomia. Insomma, è una situazione ancora piuttosto fluida questa italiana, è tipicamente italiana e speriamo di uscire quanto prima da queste sabbie mobili. Tra un paio di giorni invece parliamo di sanatoria, è una novità, sembra positiva, di cui daremo ulteriori dettagli. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, a fra due giorni. Grazie amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.